sono qui solo davanti al tramonto, guardando i gabbiani volare verso nuovi orizzonti, ma i miei orizzonti ormai sono spenti, sono spogliato dei miei ricordi. Sembro un uomo senza più speranza. Ma sono qui e non ho più ideali, non ho ragione per vivere e per esistere. Tutti negli anni mi hanno detto insisti, ma cosa insisto, mi ammazzo. È inutile continuare a sostenere una vita fatta d'inganni e di soprusi. Preferisco salutarmi con una epistola. Prendo e mi getto nel buio. Lo faccio con il sorriso. Da voi aspetto solo un fior d'aliso. Adesso che son pronto, mi manca solo l'oggetto che mi condurrà nella nuova dimensione. Quella della speranza. A voi parenti getterò nella disperazione, ma con questo mio testamento voglio dimostrarvi il mio sentimento e non il mio pentimento. Restando in vita avrei avuto il vostro amore per me, ma sappiate che il buco che ho nel cuore irreparabile.